Cingo. Oh, bianco. E beh, cingo mi. Tutto a posto? Sì, tutto a posto, la mette a posto. Sì, io sono appena arrivato. Sono appena arrivato io. Sì, scappa. Scappa tardi. Le 7, meno 25 sono. E domani alle 5 e mezza sono in piedi, devi andare. Sì, beh. Oh, yeah. Cosa bisogna fare per guadagnare il cazzo 5.000 euro al mese? Ma di chi ti si attacca alla bobita, Manuele? Sì, la gente che mi ha lontano se me ne va a baffolire in capo. Sì, lui. Cazzo di aria. Tu pur con tutti i cittadini che guadagni. Mi avevo pigliato un condominio, mi avevo pigliato. Un attimo, Natale, mi assento. Ehi, già sono qui, dai. Ehi, cazzo, oggi mi ha mangiato una bella papata. Con pancetta, naso di maiale, vinchie. Io invece ho mangiato pure. Sì, c'è buona te. Insomma. Dai, buona stessa, fatta con la sacchetta di Armona. Ragazzi, faccio qua tutto solo, ma domani, oh yeah. Una bomba, bisogna stare attenti, lo sai che esploda, ragazzi. Non c'è una bomba a vero di Suzuka. Così domani a mangiare, non mi bongo, cazzo. Posso che ci metto uccini, mi accanto, sono buono. E quindi domani dalle 5 andare, così è. Manuel! Manuele? Allora, mi senti? Yes. Cos'è che hai detto? Ho detto, ma non dovevi andare questa settimana o all'altra a parlare con quelle persone? No, oh, adesso dopo le portazioni, quando finiscono le portazioni. Ah, cappa, hanno spostato, così è. E perché ha già parlato con questo qua e ha detto non ti preoccupare e adesso... di quel paese è quello lì. È un paese dove andavo a mandare chi? È un amico mio lì. Tecnologia e medicina, sì. Benvenuta. Che va, è tutto Gabi Piridu, tantissimo, tu vieni da. Adesso vediamo. Vediamo, vabbè, era anche CB quello lì. Poi lavoriamo e tanto siamo qua. E lavora lì, lavora. Santa Maria! Ma lui non è il capo però. Come? Non è il responsabile lui. No, no. Lui è dipendente. Tu sei lì. No. Aspetta un attimo, che ha un secondo, io so chi no, io non fuggio.